Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E si torna in diretta negli studi di Via Zanardi, Breakfast Club, la colazione continua per giovedì 25 gennaio, dopo il GR di Radio Popolare. Si riparte con l'appuntamento che ho già citato, due vincitori, Dino e Luca, per quanto riguarda la serata di venerdì 26 alle 20:30. Teatro del Baracano, lo spettacolo è Sassolino. Nell'avvicinarsi alla giornata della memoria, ribadisco quello che ho già portato come mio pensiero. Chiunque strumentalizzi la Shoah, ricordando che nei campi di concentramento sono morti oppositori politici, comunisti, disabili, omosessuali, zingari e oltre che ovviamente agli ebrei, chiunque strumentalizzi questo per adoperarsi per il genocidio che la politica di Israele sta perpetrando ai danni della popolazione palestinese, ecco, in questo caso fa un gravissimo disonore ai morti del passato e ai morti del presente. È un po' come chi dice: io non leggo Dostoevskij e non leggo Tolstoi perché sono russi. Ecco, chiunque abbia queste modalità di ragionamento chiaramente non ha proprio nulla a che fare con il pensiero del Breakfast Club. Quindi, soprattutto per quanto riguarda la cultura ebraica, che è un fondamentale tra filosofia, musica, poesia, letteratura, come ben sapete non sono certo un grande studioso, anzi tutt'altro, il Breakfast Club mi aiuta a imparare insieme a voi. E per quanto riguarda l'avvicinarsi alla giornata della memoria, quello che sarà al Teatro del Baracano, ringraziando chi ha partecipato al semplice quiz che ho dato al 333-180-9494, i due vincitori Dino e Luca, per la serata di venerdì 26, cioè domani alle ore 20:30. Teatro del Baracano, sono già stati comunicati i vostri nominativi e sarete contattati a breve. Quindi io continuo a interrogare perché ho degli altri ingressi, no? Continuo a interrogare per quanto riguarda questi aspetti con Marc Chagall, pittore, artista immenso, è stata la prima risposta esatta per quanto riguarda questa possibilità a teatro, e si continua questa volta invece con un linguaggio. Ecco, manderò un brano tratto da Michael Katz, questo compositore ebraico, interpretato da un grandissimo clarinettista che è Don Byron. Ecco, questo è un linguaggio che assomiglia a un tedesco, però è molto più dolce, è un linguaggio poetico, allo stesso modo è anche trasmutato in testo musicale, come ascolteremo a breve. Chi mi dice com'è chiamata questa lingua, che nel tempo degli Shetl, villaggi ebraici, e nella Mitteleuropa chiaramente era modalità di comunicazione, beh, per voi ancora un ingresso per il Teatro del Baracano. Allora, intanto vi propongo questo brano e poi, tornando in diretta, magari avremo già delle risposte al 333-180-9494. Come si chiama questa lingua? Ida bringt der Ohrknisch, erst das Stickel mit dem vierten Fisch, war verregt die Papyrossen, wenn heiß es ist, es geht gesossen. Time to grab a Flegel. Chicken liver, two cents plain, a shiny needle, a mullet, and a real Nechaya oysters, get my boy, you schleif, a kill the knit. Tired. Schnitzel, Triegel, Chaim, nimmer Schnitzel. Listen to that Mendelblau, blow me vorne, away we go. Grazie Alessandro al 333-180-9494, apprezza molto questa colonna sonora. Certo, tra il jazz, quanto ha contribuito il klezmer nella nascita della musica jazz, con gli esuli che fuggivano i musicisti negli Stati Uniti d'America per incontrare musicisti afroamericani, per incontrare migranti italiani, e insieme a questo crogiuolo di culture una musica meravigliosa come il jazz. Il linguaggio di cui vi ho parlato, c'è la letteratura. Singer è secondo me il più grande scrittore in questa lingua. Abbiamo la poesia, abbiamo la musica, come stiamo ascoltando dal compositore Michael Katz, interpretato da Don Byron, clarinettista e oltretutto musicista afroamericano nel contemporaneo e nelle avanguardie, di grandissima ricerca e talento immenso. Questa lingua si chiama Yiddish, risposta esatta. Però metti il nome, è arrivata la risposta esatta. Però insomma, se metti anche il nome, avremo modo di contattarti per i due ingressi al Teatro del Baraccano per la giornata di domani. Lo spettacolo è Sassolino, di cui a breve darò un piccolo brano di conversazione che ho tenuto con Giambattista Giocoli, il direttore dell'orchestra del Baraccano, per conoscerne i contenuti. Merci beau Kadoches. Sibon, Sibon. Cherchez à noch une veille. Sibon, Sibon. Noch à mon. Sibon, Sibon. Nicht du mehr. Grazie Sandra. Sibon. Feeling sehr schwach. Sibon, Sibon. Reis gematert. Sibon, Sibon. No comprime, nicht du? Sibon, Sibon. Cadillac de Ville, Reis gespielt. Sibon. Ricordiamo anche che Vilnius era famosa anche per essere la Gerusalemme del Nord, perché praticamente su 200.000 abitanti circa la metà erano ebrei. Quindi diciamo, da questo libro abbiamo pensato di creare uno spettacolo, e ho proposto subito l'idea a Bruno Cappagli, che è il regista della compagnia La Baracca Teatro Testoni, che subito ha raccolto l'idea. E su mia indicazione ho proposto anche le musiche molto particolari, di cui magari potrò dire qualcosa, e da qui è nato questo spettacolo che insomma funziona molto bene. Dico che funziona perché ha già debuttato nel 2023, quest'anno lo riproponiamo perché ha avuto molto successo e perché la giornata della memoria deve essere una ricorrenza fissa, ma anche perché allo spettacolo quest'anno abbiamo aggiunto una bellissima novità, e cioè abbiamo prodotto anche una mostra appunto sia sul libro, sull'album illustrato, ma anche sullo spettacolo, che viene allestita a Palazzo D'Accursio in Manica Lunga. Sì. Inaugurerà il 22 e sarà aperta fino al 5 febbraio, mentre lo spettacolo, come giustamente dicevi tu, viene messo in scena nella sala del Teatro del Baraccano in via del Baraccano 2. Don Byron, Play the Music of Michael Katz, denominato Don Byron, the black guy who play klezmer, il ragazzo nero, musicista di klezmer. Achashverosh! Juhu, Slim, open up the corral and let inside the cattle dorten! Take it easy with the Shepsala. Grazie Sandra, quindi due ingressi per te venerdì 26, cioè domani alle 20:30, Teatro del Baraccano, Piazza del Baraccano 2. Due parole anche per quanto riguarda lo spettacolo, anche se già il direttore d'orchestra dell'orchestra del teatro stesso ne ha dato anticipazione. Durante l'occupazione tedesca della Lituania iniziò il massacro della popolazione ebraica. A Vilnius, la capitale, la maggior parte degli abitanti ebrei in successivi eccidi dal 1941 al 1943 fu sterminata nel bosco di Panerini, sulle colline a pochi chilometri dalla città. Dal massacro esiste il Pony Diary 41-43 di un giornalista polacco, Sakowicz, che in modo oggettivo, da testimone non coinvolto, di un terribile resoconto dell'uccisione di circa 50-60.000 ebrei. Ebrei lituani da parte dei nazisti e dei collaborazionisti lituani nella foresta appunto di Panerisi. Il libro è uno dei più scioccanti documenti della Shoah e sapete bene cos'è stata, e non solo per ebrei come ho citato in precedenza. È l'estate del 43, ci sono i protagonisti dal Spettacolo in Musica che viene riportato appunto Sassolino. Uno in particolare è un giovane ragazzo particolarmente dotato musicalmente parlando nell'interpretazione di grandi musicisti al violino, come già abbiamo ascoltato in questi brani, insomma, da Don Byron, lui clarinettista in questo caso in ambito di klezmer, e quanto questa musica e la parola yiddish sia complementare tra poesia e immagine e jazz. In questo caso ci porta alla conclusione Herbie Hancock, A Prayer Ceremony in Jazz, che dà conclusione a questo nostro Last Minute per andare in mostra a breve con la rubrica Regola d'Arte, quest'oggi dedicata ad Art City 2024 e corredata anche con una delle esposizioni protagoniste della rassegna. A tra poco in mostra.